Job 24. Bentrovati in compagnia dell'ultimo appuntamento di Job 24 prima dell'estate, poi ci ritroveremo a settembre. Non è stato un anno facile dal punto di vista lavorativo, nonostante abbiamo cercato in questa rubrica di essere propositivi, costruttivi, sappiamo che la situazione occupazionale nel nostro paese rimane difficile. Per questo è ancora più importante non lasciarsi andare, sfruttare ogni opportunità e anche ogni stagione. L'estate, per esempio, può rivelarsi preziosa per fare delle esperienze, per rimettersi nel mercato del lavoro, oppure per riflettere sulle strategie da adottare a settembre. Allora sentiamo come trasformare la stagione delle vacanze in un'occasione di crescita e lo facciamo in compagnia di Luisa Dani, consulente di orientamento di carriera. Molti pensano che d'estate il mercato del lavoro vada in vacanza, ma non è affatto così, anzi diciamo che vive un momento di pieno ritmo, perché le direzioni del personale e con loro anche le società di ricerca e selezione vogliono essere pronti e attrezzati per settembre e quindi desiderano chiudere anche quelle selezioni che magari hanno aperte. Ma non sono solamente le direzioni del personale e le società di ricerca, ma anche le agenzie per il lavoro lavorano a ritmo intenso per offrire ai loro clienti sia sostituzioni per i dipendenti in vacanza, ma anche persone che possano aiutarle a gestire i picchi di attività stagionale. Ma l'estate io credo che sia un'opportunità importante anche per tutti quei giovani che cercano uno stage, un'occasione per inserirsi nel mondo aziendale, perché le aziende spesso inseriscono persone durante il periodo estivo e comunque vogliono attrezzarsi per avere a settembre uno stagista al loro interno e quindi è il momento di partire anche se si desidera proporsi per uno stage. L'estate peraltro porta con sé anche i viaggi e quindi magari potrebbe essere l'occasione per valutare le opportunità magari anche all'estero di un lavoro, ma anche opportunità di studio. Settembre si avvicina e con settembre anche le iscrizioni all'università. Questo dunque è un momento, il periodo estivo e preestivo, in cui i ragazzi potranno valutare con attenzione qual è il corso migliore per loro. Per far questo possono sicuramente visitare alcuni degli open day, quelle occasioni in cui le università aprono le porte alle nuove matricole, perché alcuni sono ancora attivi e ce ne saranno nelle prossime settimane, ma anche potranno navigare virtualmente cercando sul motore di ricerca Cerca Università, che è uno spazio del Ministero dell'Università e della Ricerca in cui è proposto un motore di ricerca molto interessante che permetterà di cogliere i programmi e i diversi atenei. Quindi infine questo è proprio il momento invece per mettersi d'impegno e cercare di riflettere sul proprio futuro professionale, sia per quanto riguarda le persone che un lavoro ce l'hanno e che magari potrebbero cogliere l'occasione dell'estate per considerare se magari conviene cambiarlo o perfezionare alcune competenze che credono di non aver ancora sviluppato, ma questo è il momento buono anche per i giovani che intendono proporsi per la prima volta sul mercato del lavoro e che possono con l'estate cogliere delle opportunità, magari stagionali, magari occasionali, ma che possono essere un buon seme per un germoglio di un futuro lavorativo. Grazie a Luisa Dani e io ricordo che abbiamo affrontato in Job 24 i vari temi di cui ha parlato Luisa Dani, come trovare un lavoro estivo all'estero oppure in Italia, abbiamo parlato di stage, abbiamo dato consigli per scegliere la facoltà universitaria, insomma sono tanti i temi utili al lavoro che abbiamo affrontato nel corso dell'anno, li potete ritrovare tutti e entrando nel sito www.radio24.it, cliccando su Job 24 e quindi su archivio. Io vi saluto, vi ringrazio per l'ascolto, vi auguro un buon lavoro e una splendida estate. Con Job 24 ci risentiamo il 7 settembre. Un caro saluto da Roberta Pellegatta. I hold, I hold, I hold.